Uni Libera presenta Lucciole nelle tenebre. Bentornati a Lucciole nelle tenebre, qui in studio Stefano, Eleonora e Valentina. Come avete notato, abbiamo un grande ritorno del vecchio tecnico. Da laureato. Era ora però, eh? Vecchio sì. Elefante che non si decide a morire e torna sempre da noi, striscia da sì, noi. Sì, non sono ancora andato nel mio cimitero degli elefanti. E oggi abbiamo una puntata speciale, perché è una puntata dedicata al 1° maggio, quindi parleremo di lavoro, oserei dire. È una questione importante quella del lavoro, però ovviamente, visto che se ne può parlare in tutte le salse, noi ne abbiamo scelta una particolare, visto che è un tema che ci sta particolarmente a cuore, vogliamo parlare del lavoro femminile. E abbiamo come al solito con noi la nostra grande esperta di tutti i temi, la tuttologa Valentina, che ci parlerà un po' della storia del lavoro femminile. La laureata in tuttologia. Modestamente. All'alma mater studiorum. Però ho avuto la fortuna di, con i miei studi, di affrontare questo tema e quindi ve ne parlerò un pochino oggi. La Vale non ha niente da fare, per questo che sempre adesso sa tutto. Ok, tutta invidia, tutta invidia. Comunque, veniamo a noi. Allora, a me quando mi hanno chiesto di fare questa puntata mi è subito venuta in mente Anna Kuliscioff, che per chi non la conoscesse era la compagna di Filippo Turati e che appunto lo affiancò anche nell'elaborazione delle idee del suo partito, che si concentravano principalmente nella richiesta del suffragio universale e della legislazione sociale. Anna Kuliscioff è anche ricordata perché fu la prima donna appunto che mise avanti la questione dell'emancipazione femminile come un'emancipazione economica. Solo se la donna avesse avuto retribuzione pari a quella dell'uomo avrebbe potuto emanciparsi dalla sua condizione e anche politica e sociale, e quindi ottenere il diritto di voto e tutte come si dice, tu che sei una giurista, la parificazione giuridica rispetto all'uomo. Sì, un'eguaglianza sostanziale dei diritti rispetto all'uomo. Ecco. Ma di che periodo si parla più o meno? Fine 1800, 1800... Senti come te lo dice, come se fossi un ignorante. 1890. Solo che non se lo ricordava lei, però adesso fa finta che fosse una cosa ovvia. Non è ovvio, è per ovvio. Nessuno. Scusatemi. Fine 1800. E infatti vorrei spendere una lancia per questa donna, che non fu una grande arrivista politica, cioè non intraprese una grande carriera politica, ma in realtà lei aveva studiato medicina a Odessa, era originaria di Odessa e si era trasferita in Europa per studiare medicina. Detenne la direzione fino alla morte di un ambulatorio gratuito rivolto ai poveri che non potevano guadagnarsi le assistenze mediche. Quindi era anche una brava persona. Era una compagna fondamentalmente. Sì, era proprio una compagna fino in fondo. E il suo discorso più famoso in merito fu pronunciato appunto a Milano nel 1890, intitolato Il monopolio dell'uomo, che ottenne appunto grande visibilità e diffusione, e screditò piano piano tutte le tesi principali che venivano posti dall'uomo rispetto a, cioè che, alle giustificazioni che l'uomo poneva rispetto al fatto di dare alla donna una retribuzione migliore, cioè meno prestanza fisica, meno resistenza, tutte condizioni che invece la nuova conformazione del lavoro industriale non giustificava più, anzi rendevano migliori le attitudini femminili rispetto a quelle maschili. Ma c'erano pensieri discordanti in materia di lavoro? C'erano altre voci femminili più o meno di questo periodo che si occupavano di questo tema? Sì, beh, c'era l'Anna Kuliscioff, infatti aveva come principale avversaria una corrente diversa dello stesso periodo, una corrente femminile diversa, che era appunto Anna Maria Mozzoni, che capitanata da Anna Maria Mozzoni, che invece sostenevano che l'emancipazione femminile dovesse passare in primo luogo dalla conquista del diritto di voto, che come sappiamo avverrà molti anni dopo rispetto alla fine dell'Ottocento. e perché ritenevano che appunto solo se soltanto leggi scritte da donne sarebbero state davvero egualitarie e avrebbero portato a una legislazione paritaria. E comunque Anna Kuliscioff, oltre alla Mozzoni, si distaccò anche dal suo stesso partito socialista, il quale appunto vedeva anch'esso con timore la concorrente femminile, e quindi preferiva mantenere una netta distinzione dei ruoli. Comunque, molto bene, grazie tuttologa. Ci vuole lanciare una canzone? Certo, allora, a grande richiesta, ecco qui un titolo inglese per voi: Season dei Future Islands. Eccoci di nuovo in studio, ora facciamo un grandissimo salto storico per passare da Anna Kuliscioff ai giorni nostri e per capire com'è cambiata la situazione lavorativa femminile, se è migliorato o no. Allora, i dati del 2014 ci dicono che in Italia l'occupazione femminile delle persone tra i 15 e i 64 anni è del 46,6%, a contro di una maschile del 64%. Ora, questa è la statistica italiana. Ste, cosa ci dici dell'Emilia? Per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, attualmente le donne occupate sono in complesso 847.000, che sono 7.000 in meno rispetto a prima della crisi, cioè del 2008, con un tasso specifico per la classe d'età tra i 20 e i 64 anni del 63%, appunto 2,8 punti percentuali in meno rispetto al 2008. In più si contrae molto di più tra i giovani, in cui l'occupazione giovanile nel mondo femminile è del 30,6%, e la cosa più preoccupante in realtà è che lo scarto del reddito dovuto a uno stipendio del lavoro in Emilia-Romagna è, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, 4.000 euro in meno rispetto agli uomini, e per quanto riguarda gli autonomi invece 7.000 euro rispetto agli uomini. Quindi mi stai dicendo che se io lavoro e tu lavori, tu guadagni 7.000 euro più di me all'anno? Se io sono un attore e se io sono un attore e lavoro come attore, io potrei guadagnare all'anno 7.000 euro in più di te, che sei un'attrice. Brutto stronzetto, infame, come ti permetti? Purtroppo, a quanto pare ci sono dei contratti lavorativi con tutele e tutto quanto che al momento impediscono fondamentalmente di avere una parità in Italia. Purtroppo è la triste verità in questo momento. Ecco, collegandoci appunto al discorso che facevamo prima delle lotte femministe di inizio Novecento, se anche se di femminismo ancora di fatto non si può parlare, comunque diciamo le lotte per ottenere un salario egualitario che si cominciavano a fare, quello su cui ci siamo interrogati è stato se effettivamente la modalità di richiesta femminile di ingresso nel mondo del lavoro sia stata quella giusta. Devo dire che io ci ho riflettuto molto, in realtà è un tema che mi sta molto a cuore e che ci riflettevo da molto tempo. Secondo me il femminismo ha avuto il problema di non intaccare la società maschile, cioè nel senso il mondo maschile è sempre stato visto come un nemico anziché un mondo con cui dialogare, e quindi c'è sempre stata una contrapposizione dei generi che secondo me attualmente ha portato a un'assimilazione del modello maschile nel mondo femminile, e quindi produce nel mondo del lavoro un competitivismo accentuato che emula il modello maschile ma in certi casi è ancora più feroce, e che porta, scusami se ti interrompo, però secondo me porta anche la donna ad annullare un po' se stessa, cioè... Ma sì, certo, perché per esempio tu la gravidanza, se vai in gravidanza puoi essere licenziata. No, certo, io dicevo anche da portare proprio le sue caratteristiche che sono prettamente femminili nel mondo lavorativo e a cercare di emularsi a caratteristiche che sono più maschili, come ad esempio la competitività. Sì, sì, anzi, paradossalmente sono più competitive in questo momento le donne tra di loro piuttosto che i maschi tra di loro, che questa è una cosa che non sarebbero mai aspettati all'inizio della lotta per l'emancipazione femminile. Chissà cosa dice Anna Kuliscioff dalla tomba in questo momento. Comunque diciamo che il problema fondamentale è stato che le donne si sono trovate a doversi inserire in un modello lavorativo patriarcale, nel senso che era stato creato da una società prettamente maschile e maschilista, e il problema grosso secondo me è stato che c'è stato un inserimento, la lotta è stata per inserirsi in questo mondo e non per tentare di cambiarlo anche sulla base delle diverse necessità che comporta il ruolo femminile. Ma secondo me non è neanche una questione di ruoli femminile o maschile, è un po' una questione del fatto che non, alla fine, una vera parità anche a livello delle funzioni che si svolgono poi a livello sociale non si ha attualmente. Come adesso faccio la mia solita parentesi pallosa giuridica, per esempio esiste un congedo di paternità analogo a quello di maternità per i primi mesi di vita del bambino, pagato all'80% per entrambi i genitori, però un congedo di maternità totalmente retribuito non ha un suo corrispettivo maschile, nel senso che un uomo, se vuole stare a casa col figliolo, non viene pagato totalmente ma solo all'80%, se non, come ha inserito la buona signora Fornero, per 3 giorni come addirittura Gesù. Come Gesù praticamente. Devi essere molto veloce ad amare tuo figlio ai 3 giorni se sei un padre, per stare col pargoletto totalmente pagato. Beh, altrimenti buona cosa. Cazzi. Vuoi lanciare una canzone, Ele? Allora, per farci riflettere. Per riflettere, Think di Aretha Franklin. Think about it. You better think about what's trying to do to me. Ed eccoci giunti al momento più atteso della nostra puntata. Bububuffie. Di che cosa parliamo oggi, Ste? Oggi parliamo di un paesino che si chiama Gorgognano, in cui sono stato il 26 aprile, il giorno dopo il 25 aprile. Perché parlo di Gorgognano? Perché Gorgognano è un paesino molto particolare, in quanto è un paesino che è stato abbandonato nel 1944 a seguito di un bombardamento. E io sono andato là in quanto mi sono messo d'accordo con l'associazione locale Le Botteghe e sono andato con il mio reparto di scout a fare una ripulitura del posto. Perché questo posto, questo paesino di nome Gorgognano, che si trova a un'ora e mezza di cammino da Botteghino di Zocca, qui vicino, quindi nel bolognese, vuole essere trasformato in un parco memoriale del paese stesso. E quindi siamo stati là a ripulire questo parco dai rovi e queste cose qui, perché è molto bello far rivivere dei posti che sono stati abbandonati nel corso del tempo. Il paesino in questo momento non ha particolari, cioè il paesino è ovviamente stato quasi totalmente distrutto dalle bombe, però comunque sia è molto bello avere un'associazione come Le Botteghe che si occupi della ristrutturazione, di far rivivere un posto che è stato abbandonato per delle forze di causa maggiori. Ed è molto bello, secondo me, far rivivere, cioè cercare di tirare fuori questo paese da 70 anni di rovi. Ma quindi abbiamo la possibilità di andarci così quando vogliamo? E bisogna mettersi d'accordo con l'associazione Le Botteghe. Io stavo cercando in realtà di ritornarci tipo attorno al 2 giugno e ci proviamo, perché secondo me è bello far rivivere appunto questi posti, dar vita a degli spazi che non sono più in uso. Allora venite tutti con noi, tutti sulla macchina di Stefano in 25, dai, però 25. Venite dai, numerosissimi. Beh, siamo in conclusione e direi che per questo primo maggio non possiamo non salutarvi con una canzone che parla appunto del tema. E quindi io vi lancerei di Elio e le Storie Tese, Il Complesso del Primo Maggio. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Buona festa dei lavoratori. Questa è la canzone del complesso del primo maggio, che in genere si esibisce sotto il sole di pomeriggio, con la chitarra acustica scordata calante, che la gente che balla a torso nudo neanche la sente. Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metal meccanico che brandisce una biella, corre quella col piercing che non è tanto bella. Complesso del primo maggio, lui complesso del primo maggio, ti va riconosciuto una certa dose di coraggio. Complesso del primo maggio, lui complesso del primo maggio, che quando ti sento, sento che mi sento a disagio. E all'improvviso parte una canzone tipo Brejovic. La musica balcanica ci ha rotto i coglioni, è bella e tutto quanto ma alla lunga rompe i coglioni. Certo ne avrei senz'altro tutta un'altra opinione, se fossi un balcanico, se fossi un balcone, ma siccome non sono croato, né un balcone balcano, io non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a suonare questa musica di merda. Ma comunque, prima di cantare una canzone balcanosa, ricordati di fare una cosa: lanciare un'invettiva ai danni del capitalismo. Allora noi vogliamo dedicare questa canzone contro il capitalismo, perché è ora di dire basta con lavoro che frutta tutti. Devono capire che hanno rotto le palle i padroni, perché le masse operaie trovano vincenza. Fatevi sentire, siete tantissimi. Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metal meccanico che brandisce una biella, corre quella con pissing che non è tanto bella. Complesso del primo maggio che ci stanno e cantanti, e tutti e due vorrebbero essere l'unico là davanti. Non mi riferisco per forza ai linea 77, ma i linea 77 sono un ottimo esempio. E all'improvviso parte una canzone tipo linea 77. Non mi cantare davanti, non mi cantare sopra.